Puntuali 8:32 minuti, terza parte della rubrica In Scena, come oggi e come tutti i giorni, ricchissima di voci, ricchissima di appuntamenti e una presentazione per quanto riguarda la stagione del Teatro Laura Betti a Casalecchio. Come vi ho detto, ci avviciniamo, siamo partiti da Crevalcore, passati da San Giovanni, arriviamo a Casalecchio. Insomma, c'è anche un che di stradale, oltre che di geografico, ma soprattutto di contenuto per la rubrica In Scena. Si alza al sipario sui 103.1. Allora, per il Teatro Laura Betti siamo con Antonella Babbone, che innanzitutto saluto, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, buongiorno a voi e a tutti. Allora, cominciamo con questa stagione che tra l'altro è ricchissima in una sede teatrale, in un palcoscenico che seguiamo già da tempo ovviamente, e partiamo con quali parole d'ordine e con che inizio vediamo il cartellone a Casalecchio. A te la parola, Antonella. Allora, partiamo proprio oggi, quindi venerdì 17, partiamo con Paolo Nori, con uno spettacolo sulla libertà. Il titolo è La libertà, primo episodio, per cui iniziamo quindi con intorno a una tematica importante, anche perché lo spettacolo si inserisce all'interno, oltre che del cartellone della stagione multidisciplinare del Betti, anche di Politicamente Scorretto, che è un progetto del comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con Carlo Lucarelli, che tratta appunto tematiche quali la giustizia, la libertà, il diritto al sapere. Quindi diciamo che iniziamo con questa collaborazione bella, insomma importante, sia per il teatro che per appunto rapporti con il territorio e con il comune, e intorno a uno spettacolo che per l'appunto si interroga intorno a questa tematica, una tematica ampia, importante, e il titolo stesso ce lo suggerisce, un primo episodio, cioè una prima tappa, un primo tentativo, un discorso possibile intorno alla libertà. Insieme a Paolo Nori scena anche le musiche di Alessandro Nidi e un bel gruppo di musicisti che accompagneranno le parole di Nori, e quindi una componente, anche un progetto insomma musicale importante che accompagna lo spettacolo. Certo, io vedo dei nomi importantissimi di ispirazione che riguardano anche delle mie grandi passioni per la letteratura russa e la poesia: Iosif Brodsky, grandissimo poeta, ma potrei aggiungere anche per quello che troviamo di Anna Akhmatova, da Pushkin, e Mandelstam, un grande poeta anche lui, un periodo assolutamente fertile per quanto riguarda la cultura, la letteratura e il teatro. Poi ovviamente non possiamo mancare di citare un grande trittico che è Tolstoi, Gogol e Dostoevskij. Accidenti, che parterre de roi che abbiamo in questa rassegna. Hai detto benissimo, e naturalmente, come dire, Paolo Nori in un qualche modo si dice subito felice e riconoscente di tutti questi nomi importanti che hai citato, e in effetti la domanda che si pone e che ci pone è proprio: è possibile oggi essere una cosa del genere, cioè essere sudditi e felici e riconoscenti? Quindi diciamo che sì, assolutamente ci saranno, insomma sarà uno spettacolo che insomma sarà molto bello da ascoltare, da vedere. Quindi abbiamo stasera un teatro pieno, quindi siamo molto felici, quindi è un inizio, così un battesimo di stagione bello. Certo, tra l'altro insomma abbiamo avuto altre voci che hanno dei parallelismi e sono molto contento di dare un filo conduttore legato sia alla cultura ma a un impegno sociale contro il pensiero unico, che in questo momento ovviamente è imperante, e vediamo poi le conseguenze, e con la cultura dare una risposta quanto mai concreta. Grazie quindi per portare contenuti così importanti e utili. La libertà, primo episodio, Paolo Nori inaugura la stagione del Teatro Laura Betti. Sarà questa sera a Casalecchio alle ore 21, dico bene? Sì, esatto, okay. Alle ore 21. Bene, ascolta, possiamo mettere un po' di musica, poi rientriamo e parliamo anche, certo, della situazione a venire per quanto riguarda la sede del Laura Betti. A tra poco con Antonella Babbone, In Scena, Radio Città Fujiko. Thank you. Abbiamo dato il via alla presentazione così sintetica ma alquanto esaustiva che Antonella ha portato per lo spettacolo di questa sera. Primo episodio, La Libertà. Paolo Onori inaugura la stagione del Teatro Laura Betti. Ci sei, Antonella? Sono qui. Eccoci. Ci sono. Bene. Dopo un po' di musica dei Fragile State, continuiamo la nostra conversazione. Abbiamo detto che è una partenza, quindi insomma, a grandi linee ci potresti dire fili conduttori degli spettacoli, collaborazioni, insomma, e tante cose che possono essere d'ascolto per chi fa colazione con il Breakfast Club. Certo, allora sicuramente, come dire, ci sono degli spettacoli, diversi spettacoli di impegno civile in questa stagione multidisciplinare 23-24, e quindi abbiamo infatti il prossimo spettacolo è Antenati con Di e con Marco Paolini. Anche qui comunque il tema è non solo chiamare a raccolta un po' quelli che sono appunto i legami e quindi tutto ciò che è una sorta, quella che è, diventa una sorta di riunione stravagante di famiglia in cui vengono chiamati in causa tutti i nonni, come dire, anche il modo in cui questi si relazionano al nostro presente, e, ma c'è anche la Cuscunà che altrettanto porta, come dire, in scena temi che riguardano l'ambiente, insomma l'ecologia. C'è Oscar De Summa, questa sera Sono in Vena, che festeggia 10 anni di spettacolo, e tra l'altro questi ultimi spettacoli insieme alla Libertà costruiscono anche quello che è uno dei nostri abbonamenti, che è il Politicamente Scorretto. Quindi proseguiamo poi con un calendario bello fitto da gennaio, quello andando appunto prima ancora siamo sul Capodanno di Comunità, che è un progetto del Teatro Laura Betti insieme al Comune di Casalecchio di Reno, un progetto di comunità molto sentito, e quindi avremo Comaschi e Franz Campi in un show incentrato soprattutto su canzoni, monologhi e canzoni, insomma, che in qualche modo riguardano anche il cibo, ed è un progetto insomma importante, sentito, e stiamo costruendo anche, come dire, un dopo spettacolo per aspettare la mezzanotte insieme. E, è un viaggio quello della stagione multidisciplinare di 9 appuntamenti, e in cui si toccano per l'appunto tematiche belle e importanti, e che insomma ci accompagnerà fino ad aprile. Bene, bello, anche perché ci sono delle linee, vedo, in determinati aspetti che sono non solo molto condivisibili ma che danno un'attenzione di critica contro quello che è un pensiero unico, quindi si dà continuità nel mondo della cultura, della letteratura, dell'arte, della musica, dello spettacolo, e ne sono ben contento insomma di sentire queste programmazioni che hanno, oltre che la qualità, la conoscenza, il talento, come ho già detto, ma anche l'impegno, quindi grazie, scusa se ti ho interrotto. No, va benissimo, come dicevamo per l'appunto è multidisciplinare, per cui hai detto bene, non c'è solo la prosa, c'è anche la musica, c'è la danza, abbiamo un appuntamento importante, quella con Ambra Senatore il 15 marzo con uno spettacolo dal titolo Col Tempo, e quindi insomma abbiamo una stagione insomma che offre diversi appuntamenti anche che riguardano altri come dire filoni dello spettacolo dal vivo. C'è Frida Bollani Magoni in concerto a gennaio, un appuntamento tutto musicale, e insomma siamo, certo, come dire, partiti questa settimana, prima ancora con la programmazione degli spettacoli per il Teatro Ragazzi, che è un altro importantissimo, un'attenzione importante che il Teatro Laura Betti, ma che in generale ATER, Fondazione, riserva al pubblico giovane. E ci tengo a raccontare insomma gli appuntamenti di questa settimana, perché sono stati due appuntamenti belli ma anche che rientrano in progetti più ampi, quindi la stanza di Agnese questo martedì all'interno sempre di Politicamente Scorretto, e ieri abbiamo portato in scena Bully Bully della compagnia olandese Masteater, che è all'interno poi di Teatro Arcobaleno, che è un altro progetto comunque di diversi partner, che appunto si interroga anche sulle tematiche di genere, e lo fa attraverso spettacoli per l'infanzia e l'adolescenza, laboratori, spettacoli teatrali e di danza. Quindi insomma c'è un'attenzione importante anche a tutto quello che è la costruzione, comunque anche la formazione del pubblico del futuro e di tutta una fascia insomma giovane di teatro ragazzi. Sì, assolutamente sì, conosco bene il teatro Laura Betti a Casalecchio, che ha diverse diramazioni di impegno e frange importanti che vanno a coprire tutte le età e non solo. E appunto alle 8:44 minuti io direi che possiamo aggiungere, immagino ci sia il sito, la pagina Facebook per avere il programma in maniera dettagliata e anche più da consultare in tranquillità rispetto a questi nostri 10 minuti di conversazione, seppur importante. Ci puoi dare qualche dettaglio? Certo, allora potete consultare il sito, dove ovviamente è un approfondimento di tutte, insomma, di tutto quello, di tutti gli spettacoli in programmazione, che è www.teatrocasalecchio.it. Abbiamo una pagina Facebook e anche una pagina Instagram, quindi potete assolutamente cercarci e insomma rimanere aggiornati anche rispetto a tutte le novità insomma della stagione. Io ti ringrazio tantissimo, ti auguro una buona giornata e appuntamento, come dicono i cartelloni che seguiamo, anche per andare nel dettaglio con quelli che sono gli incontri, in questo caso al Teatro Laura Betti. Domani si parte, La Libertà, primo episodio, Paolo Nori inaugura la stagione del teatro a Casalecchio, il Teatro Laura Betti, alle ore 21. Grazie Antonella, ti auguro una buona giornata. Grazie, una buona giornata. Ciao, a presto. Ciao. Interpretato da questa formazione per la AC Jazz Record, gli Evergreen. Grazie per aver fatto colazione con il Breakfast Club, triplo appuntamento Crevalcore, 3 teatri per te, dopodiché con Monio Vadi a San Giovanni in Persiceto, questa sera Oil and Goylem. Abbiamo chiuso con la programmazione incentrando sullo spettacolo, anche lui questa sera, Paolo Nori, La Libertà, primo episodio, l'inaugurazione a Casalecchio della stagione per il Teatro Laura Betti. Beh, Beh, ovviamente il teatro ritorna sempre comunque presente, poi abbiamo i vari last minute ufficialmente il venerdì prossimo. Intanto per questa vigilia di weekend io vi auguro un weekend bellissimo e vi do appuntamento a lunedì con il Breakfast Club. Intanto pensiamo un attimo di relax per chi ne ha le possibilità per il sabato e la domenica. Prima colazione in diretta alle ore 7 di lunedì della prossima settimana verso la fine di novembre oramai, quindi tra pochissimo rassegna stampa, quindi non finisce certamente qui la mattinata e le dirette di Radio Città Fujiko, anzi anticipate da Edipeo Enciclopedico e Liberi Dentro. Dopodiché alle 11.30 con il Jazz Live, ospite in diretta Emiliano Pintori per Jazz Insight, e poi avremo approfondimento anche per gli appuntamenti al Torrione Jazz Club Estense a lunedì. Per chi ci sarà anche a più tardi, buona mattinata, un buon ascolto e un grande abbraccio dal vostro William Piana. Ciao a tutte, ciao a tutti. Just like a ghost, you've been a haunting my dream.